to be a source of inspiration for me since the age of 17, when I first came to Italy. Sono molto contento di essere qui e la ragione per cui sono contento è che l'Italia è sempre stata per me una fonte di ispirazione e tutto è partito quando avevo 17 anni e sono venuto per la prima volta in Italia. I want to talk really about the brain and begin by looking at the functions of the brain. There are many functions that we can ascribe to the brain: vision, language, motor action, feeding. But above all of that, there is one overall function which includes everything, and that is the acquisition of knowledge. Allora, quello di cui voglio parlare oggi è il cervello. Sappiamo tutti che il cervello ha diverse funzioni, ha la vista, ha la sensazione, gestisce i movimenti, ma c'è una funzione che le accomuna tutte e che le supera tutte, che è l'acquisizione della conoscenza. Once we accept this as a major primordial function of the brain, we find ourselves in a deeply philosophical world, because the problem of philosophy traditionally has been: how do we acquire knowledge in an ever-changing world, and how sure are we of what we know? Una volta che accettiamo il fatto che l'acquisizione della conoscenza è la funzione maggiore del cervello, questo problema assume anche delle connotazioni filosofiche, in quanto la grande domanda della filosofia nella storia è stata: come acquisiamo la conoscenza? So the study of the brain becomes a philosophical inquiry which is conducted by geological means. E quindi lo studio del cervello diventa una ricerca filosofica in quanto conducted by sì, perché appunto ha delle conoscenze tecnologiche. Now you should not be surprised that neurobiology, which has invaded every single scientific field, mathematics, chemistry, pharmacology, biochemistry, has not invaded one very important field, which is the products of the human brain in terms of art, literature, and music. La neurobiologia, che ha invaso tutte le discipline dalla farmacologia alla chimica, e non è riuscita mai però finora a invadere quello che è il campo invece della produzione, quello che produce il cervello umano in termini artistici. But these are products of the human brain, and by studying them carefully and seriously, not for entertainment but as a serious neurobiologist, we can learn, I believe, a great deal about the organization of the brain. Ma se prendiamo questo compito in modo serio, quindi non per solo di un divertimento, ma interpretiamo l'arte in modo serio, in termini neurobiologici, impareremo molto, moltissimo riguardo all'organizzazione del cervello. Now there are some in art history, in philosophy of art, who don't like us to invade their field. They somehow seem to be afraid of this. But I want to reassure them, and reassure everybody else, that we have nothing at all to teach them, nothing to teach them. But we have a great deal to learn from them. So we are really the supplicant beggars wanting to learn from them, but we don't think we've got anything to teach them. Allora, quando c'è questo tentativo di invasione, vedo da parte di chi si occupa di filosofia una grande paura, quasi una paura di essere invasi, ma è nostra intenzione invece rassicurarli che non hanno nulla da temere, ma che noi abbiamo solo intenzione di imparare da loro, perché c'è molto da imparare da loro. So you should not be surprised if in this lecture I go into philosophy and art and literature, because I would like to convince you that we can learn a great deal about the brain by doing that. Non sorprendetevi quindi se in questa mia presentazione parlerò di filosofia, parlerò di arte, di letteratura, perché vi voglio proprio convincere che è questa la strada per capire quello che voglio dire. So I would like to concentrate largely, but not exclusively, on the visible brain, through which we obtain much of our knowledge. mi concentrerò non esclusivamente, ma principalmente sulle funzioni del cervello che riguardano la vista e la visione. In summary, each part of the field of view sends signals to a particular point in the retina, which connects with a particular part in the field of view. Ogni parte. Sorry, particular part of the primary visual cortex. Allora, ogni parte del campo visivo manda dei segnali alla retina e attraverso la retina verso la corteccia nella parte posteriore del cervello. So all the information contained in the small part of the field of view, color, form, movement, depth, etc., is relayed to a given small point, 1 millimeter square, of cortex. Quindi, per ogni piccola porzione del campo visivo che processa il colore, la forma, il movimento, la luce, appartiene una piccolissima zona di pochissimi millimetri nella corteccia. Now, if you look closely at how this small part of the cortex connects with other parts of the brain, you find that each point has got multiple outputs. It's not very well clear here, but it's got multiple, at least 7, 8 outputs to other parts of the cortex in front. Quindi se guardate questa immagine più da vicino vedrete che ogni punto della corteccia ha più punti di connessione con altre parti del cervello, quindi ogni punto ci sono più punti di connessione verso l'esterno. It is difficult to believe that the brain would send the same signals to these different areas of the cortex in these independent and parallel pathways. È difficile pensare che il cervello mandi lo stesso identico messaggio a diverse parti del cervello nello stesso tempo. And to cut a long story short, we have indeed found in the past 20-25 years, and this is now accepted by everyone, that outside the primary visual cortex are many visual areas, of which I show some here. Negli ultimi 25 anni, e questo è un dato osservato e accettato da tutti adesso, si è capito che al di fuori della corteccia visiva primaria. I'm showing some of these here, and I'll concentrate mainly, but not exclusively, on these two areas, the visual motion area and the visual the color area, but I'll also talk a bit about the face and object recognition. E la situazione è differente perché vediamo che c'è una parte che gestisce il colore, una parte che gestisce il movimento e la differenziazione è più grande. So, the first thing to demonstrate La is the prima principle of functional specialization in the visual brain. è la funzione, è la, il principio di, functional, Functional specialization. di specializzazione funzionale della corteccia. If you had subjects looking at an abstract multicolored scene with no recognizable object. Quindi, se guardate una scena senza in movimento e astratta, senza oggetti riconoscibili, You find activity in the brain shown in white, red, and yellow, located in two regions, one at the back of the brain, corresponding to the primary visual cortex, and another one in a region lying which is area B4. Allora, e vedrete che nel cervello, mentre vedete questa scena, nel cervello avviene un'attività in due regioni del cervello. In una regione l'attività avviene nella corteccia primaria visiva, e l'altra parte, B4. V4, che è Okay, il centro che gestisce i colori. On the other hand, when the same subjects look at a pattern in motion, again, there's activity in the primary visual cortex, which is the royal entrance to the brain, visual entrance brain, but there's also activity in another area, which is both distinct from this, which is the motion center or area B5. Quindi, se si guarda l'immagine a movimento, c'è attività sia nella corteccia visiva primaria, che è l'entrata principale, l'entrata d'onore del cervello, ma anche attività in parti molto diverse del cervello, che sono le parti che gestiscono il movimento. And this single experiment shows you the principle of functional specialization in the visual brain. E questo semplice esperimento vi spiega in cosa consiste il principio di specializzazione funzionale. Now, these are not the only two specializations, there are many others, but this is just sufficient to illustrate the point. anche se le funzioni sono molto più di queste due che abbiamo dimostrato, che abbiamo spiegato, questo è un esempio molto semplice che spiega in breve cosa succede. Now, these areas, the color sensor and the motion sensor, are not just processing areas, they are perceptual areas. In other words, we see color and motion through activity in these two areas. Quindi queste aree del cervello non processano solamente quello che si vede, ma sono anche aree che recepiscono le emozioni, sono aree emotive. So, if there is a lesion damage to this area, se questa parte subisce una lesione, the consequence is syndrome of cerebral achromatopsia or an incapacity to see the world in color. Quindi, se questa parte del cervello viene lesionata, si ha una sindrome che porta all'incapacità di vedere il mondo a colori. But the patient can see all the other attributes. Però il paziente riesce lo stesso a vedere tutti gli altri attributi della vista. If on the other hand there is damage in this area V5, se il cervello è danneggiato nell'area V5, okay, I'm sorry about that. Let me the consequence of a lesion here is I had a slide of a patient but it's missing, is a syndrome of cerebral achromatopsia. So that the patient cannot see objects when they are in motion. Ah, quindi il paziente non riesce a vedere gli oggetti in movimento. But can see them when you are stationary. Ma può vederli quando sono fermi. And tell their color. E anche dire di che colore sono. So, these are perceptual areas and we become conscious of color or conscious of motion because of activity in different areas. Ah, quindi queste sono funzioni percettive del cervello, quindi non ci rendiamo conto di questi attributi perché avvengono in più aree. So visual consciousness is distributed in space. Quindi la coscienza visiva è distribuita nello spazio. Now, it also turns out that we see color before we see motion by 80 milliseconds. Quindi per 80. Quindi c'è un intervallo di 80 millisecondi tra quando percepiamo il colore e tra quando percepiamo il movimento. So if you have a pendulum swinging back and forth and changing color as it swings back and forth and ask subject to tell you what the color is when it's moving to the right, they will always get it wrong because they attribute the motion that they see at time zero to the color to the motion that they're seeing at minus 80 milliseconds. Quindi se si chiede a qualcuno di guardare questi pendoli in movimento e di dire di che colore sono, quando si muovono verso destra, quando si muovono all'indietro, tornano indietro, la persona vi dirà sempre il colore sbagliato perché vi dirà il colore che vede 80 millisecondi prima, quindi quando il momento in cui percepisce un movimento, 80 millisecondi prima aveva visto il colore vecchio. So we do not see color and motion at the exact same time. Quindi non vediamo il colore e il movimento allo stesso tempo. We become conscious of color before we become conscious of motion. Diventiamo coscienti del colore prima del movimento. And the fact that we bind the color that we see at time to the motion that we saw at minus 80 milliseconds. E il fatto che noi leghiamo il colore che vediamo al movimento che abbiamo visto 80 millisecondi fa implies that the brain does not have a center which waits for all the areas to finish their tasks before binding them together. It binds what has been processed. Ah, quindi il cervello non ha una parte che riassume e chiude tutte le attività per dare una risposta, ma man mano che le percezioni vengono processate si organizza. Now, 80 milliseconds is trivial because there are 1,000 milliseconds in a second. Quindi, è quasi nulla, è trivial, right? Yeah. Non, 80 millisecondi non sono quasi niente perché ci sono 1000 millisecondi in un secondo. But in terms of the nervous system, it's a very long amount of time because it takes the nervous impulse up to 1 millisecond to cross from one cell to the other. Up to one. Ma in termini neurologici è una questione di tempo molto importante perché porta da mezzo fino a un up to 1 millisecond. Fino a da mezzo a un millisecondo. To cross from one cell to the other. Il passaggio, cioè c'è bisogno di da mezzo a un millisecondo per passare da una cellula all'altra. So, the next conclusion is that visual consciousness is distributed in time. Quindi la coscienza visiva è distribuita nel tempo. Therefore, there is no such thing as a unified visual consciousness, but there are instead many visual consciousnesses, which we call microconsciousnesses, which are distributed in space and distributed in time. Quindi non esiste una sola coscienza, ma ci sono molte microcoscienze che sono distribuite nello spazio e nel tempo. So the knowledge acquiring system of the brain is distributed through many visual areas which have different activity time courses. Quindi il processo di acquisizione della conoscenza nel cervello in realtà si basa su diverse attività che succedono in momenti e luoghi del cervello diversi allo stesso tempo. I was going to show you this, but unfortunately we don't have the sound system. I was going to show you the opening, what happens in your brain when you look at the opening scene of the James Bond movie. But we don't have the non abbiamo gli speaker per farvi sentire cosa succede nel vostro cervello quando ascoltate la sigla all'inizio di James Bond. Sorry, this is the brain of a woman who became a kind of toxic. It was just this brain. Ah, questo è il cervello di una donna che ha avuto il problema. Non riusciva più a vedere il colore. She has massive lesions, which include the territory of the motion sensor. Questo infatti è il è la the motion. So, la donna che non riusciva a vedere il movimento. E infatti ci sono le lesioni cerebrali nei punti in cui si produce il movimento. Okay, so now I would like to go into the problem of knowledge, starting from knowledge which is certain and in which you have no control whatsoever. And ending up with knowledge which is highly ambiguous and which is capable of multiple interpretations. Allora, partirò da il concetto di conoscenza, di un tipo di conoscenza di cui non si ha controllo, e poi mi sposterò verso invece un tipo di conoscenza che è molto dibattuta e molto sofisticata. Now, let me start with color. Color vision, which has always attracted the interest of philosophers. Mm-hmm. In fact, Arthur Schopenhauer wrote a book about it, Immanuel Kant discussed it, Schrödinger wrote about it, Wittgenstein, mm-hmm. and many other philosophers. Quindi partiamo dal colore, che è la percezione del colore, che è quello che ha interessato sempre molti filosofi, da Schopenhauer a Wittgenstein, a Kant, others. Because the problem of color vision is the problem of how to acquire constant knowledge about something when everything is changing all the time. The Heraclitean doctrine of flux. Allora, il problema del colore parte dal problema di conoscenza costante, cioè riconoscere in modo costante qualcosa mentre tutto ciò che lo circonda cambia, e quindi è il concetto anche di flusso. For example, a green leaf. Una foglia verde looks green at dawn or at dusk when it reflects a lot more of the short wavelength blue and green light. But a green leaf looks green at dawn or at dusk when it reflects a lot more red light. Mm-hmm. And also looks green at noon on a sunny day or a cloudy day when it reflects more of the green light. Una foglia verde in realtà al mattino e al tramonto, nell'alba al tramonto, riflette molto di più la luce rossi, mentre invece riflette di più il colore verde al picco del mezzogiorno. And this is shown here for a white piece of paper. This white piece of paper, if looked at in tungsten light like right here, mm-hmm. will be reflecting a lot more of the red waveband. When looked at in fluorescent light, it will be reflecting more of the middle waveband. And if looked on a rainy day, reflects a lot more of the short waveband. Mm-hmm. But it always looks white. Anche se un foglio bianco sembra sempre bianco, in realtà che sia guardato con una luce al tungsteno, una luce fluorescente o in una giornata di pioggia, riflette prima il rosso molto di più, poi il verde e poi il blu. And this has been the subject of much debate among philosophers and others as to how the brain does this. Some people thought that because you remember it's white, other people thought that you your judgment says it's right. But I subscribe to the theory of Edwin Land, who says it's a simple computational process which does not depend upon judgment or learning or memory. I filosofi e altri studiosi hanno sviluppato molte teorie riguardo al perché noi diciamo con foglio bianco, c'è chi ha detto che ce lo ricordiamo bianco, c'è chi ha detto la nostra coscienza che ci dice che dobbiamo dire che è bianco, mentre io mi rifaccio al pensiero di Edwin Land, che ha inventato la la camera Polaroid, Result of a computational process. Ah, so che il colore non dipende a nessuna, non dipende a nessuna proiezione, ma è solo un problema di computazione. And I want to illustrate this, and I would like to pay attention just for a few minutes, because it's very important to learn how this can be done in a very simple way. Ah, voglio spiegarvi, prendere qualche minuto per spiegarvi con la precisione questo esperimento, questo caso, perché credo che sia un punto molto So we have a multicolored display like this with no recognizable object. Non abbiamo oggetti, non abbiamo oggetti riconoscibili in questa immagine multicolore. Illuminated by three projectors, one passing red, one green, and one blue light. Illuminati da tre proiettori che proiettano luce rossa, verde e blu. And the amount of light coming from each projector can be changed by means of these thermostats. E ci sono dei meccanismi che riesce a dosare il flusso di luce che diamo a queste proiettori. And measured by means of a telephotometer. E un telefotometro che ci misura quello che succede. So, let us look at this green area. Vediamo l'area verde. And make this green area reflect 30 milliwatts of red light, 60 milliwatts of green light and 10 milliwatts of blue. Quindi vediamo come questa piccola sezione verde rifletta 30 milliwatt di luce rossa, 60 di luce verde e 10 di luce blu. When we switch on all three projectors, the object reports its color to be green. Quando accendiamo tutti e tre i proiettori allo stesso momento, l'audience, cioè il pubblico ci dirà che è verde. But if you look at what the surround reflects, you'll find that when this area is reflecting 38 units of red light, the surround, which has a higher efficiency for reflecting red light, reflects more. And there's a ratio in the amount of red light reflected from this green surface and from the surround, which is 0.75. Quindi vediamo che mentre noi percepiamo come verde la parte verde, quello che succede al blu, c'è un rapporto tra la quantità di luce rossa del centro e il quello circondo. E questo rapporto è 0,75. There is another ratio for the amount of green light reflected from the center. Ah, c'è anche un altro rapporto tra la luce verde riflessa nel punto e quello circonda. The center reflects more green light because of higher efficiency for reflecting green light than the surround. Anche il centro riflette più luce verde perché è più efficiente. And that ratio is 1.20. And there's a third ratio for blue light. Now we do the second and critical experiment. Questo è un esperimento, invece c'è l'esperimento critico. In which we take the same green area and make it reflect 60 milliwatts of red light. Noi prendiamo la luce verde, la stessa di prima, ma le facciamo particolare verde, ma gli facciamo riflettere 60 milliwatt di luce rossa. And 30 milliwatts of green light. 30 di verde. And 10 milliwatts of blue light. E 10 di blu. So it's reflecting twice the amount of red than of green light. Quindi vediamo che riflette due volte di più il rosso rispetto al verde. Now, if you, when you switch the three projectors on, the audience reports this area to be green. Quindi se si aprono più tre proiettori, la gente dirà che è verde. It is a darker shade of green, but it is green. Anche se è più scuro, è sempre verde. Now, if you look at the amount of red, green, and blue light reflected from the center and from the surround, you find that you've got three ratios that are identical to these ratios. Quindi vedete, se si confronta il centro rispetto alla periferia, si vedrà che i rapporti sono assolutamente identici a quelli del primo esperimento. And it is by this means that the brain is able to assign a constant color to a surface. Ed è per questo motivo che il cervello riesce ad attribuire a una superficie costantemente lo stesso colore. There are no colors in the world outside. The brain constructs the colors. Allora, non esistono colori nel mondo che il cervello non può puntualizzare come colore, come c'è come colore. The colors are constructed by this ratio-taking system, and there is no physical law that says that you should take these ratios. It's a brain law. Quindi il cervello ha una legge secondo cui dà senso a tutti questi colori e non esiste, è una legge cerebrale e non ci sono altre leggi esterne che interferiscono con il cervello. So here that is the brain constructing the whole knowledge, and as Isaac Newton said in 1704, I will quote, let me know that. E quindi questo è il modo in cui il cervello costruisce i colori e come disse Newton nel 1704. Or the red you see properly has no color. Per la razza, for the race, quindi per la tuta, la razza non ha colore. In long there is nothing else than the person's power and disposition to stir up the sensation of color. I raggi, scusate, i raggi non in them there is nothing else but the power and the solution to stir up. E quindi l'unica cosa che fa il colore è avere in sé il potere e la disposizione a risaltare il colore. Now that power and disposition giusto, e quindi nella parte B4 viene processata questa parte del colore e quindi se viene lesionata non si è in capace di vedere il colore. And it is quite important to realize that the knowledge that you acquire is certain and you have got no free will in it whatsoever. E in tutto questo processo non esiste il libero arbitrio. So, if you know that a green leaf is reflecting more red light at dawn or at sun, you cannot choose to see it in red. Quindi non si può scegliere di vederla rosso, anche se la stessa foglia di prima al mattino e alla sera, anche se riflette più rosso, non possiamo non dire che è rosso. So, ratio taking is a concept. It's a concept that is applied to the incoming signal, just as Kant said. Quindi il sistema di rapporti viene applicato a tutti i segnali che entrano nel cervello. Immanuel Kant said that sensations without concepts are blind. Quindi Kant diceva che le sensazioni senza il concetto sono cieche. The ratio taking concept is applied in D4, and when D4 is destroyed, it can't be applied anymore, and therefore one becomes colorblind. Invece questo sistema di rapporti è processato nella zona B4 e se la zona B4 viene lesionata non c'è modo di vedere il colore. I want to point out a very important feature that when people look at colors, if this area becomes active, there is no activity in the frontal cortex or any other area which has been traditionally implicated in higher functions such as judging and learning. Mentre al contrario di quanto si pensava per quanto riguarda l'acquisizione, la memoria, l'apprendimento, tutto avviene in questa zona e non nella zona frontale. E non in so. So, our knowledge of the world is very much dictated by the physiology of the brain and the kind of concept that the brain applies. Quindi conoscenza, il processo di processare la conoscenza ha molto a che fare con la fisiologia del cervello e come il cervello processa ciò che entra. This figure here is called the Kinesa triangle famoso il triangolo di Canizza dal nome di Gesù Canizza che lo conosciamo. Molte persone lo, la maggior parte delle persone lo interpretano come un triangolo. Anche se in termini di lingua il divino è discontinuo. Now again, you are not at liberty to interpret in any way you want, because the geology of the cells, which are active when you look at this, determines that you can only see it in this way. Quindi non siete assolutamente liberi di interpretarlo come un triangolo, perché la fisiologia delle cellule fisiologicamente vi spingono a dire sia un triangolo. So, indeed there is a quindi in questo punto ci sono delle cellule che rispondono alla posizione, all'orientamento delle linee. Quindi rispondono all'orientamento in questa posizione, ma non in altre linee. E quelli sono i modi in cui reagiscono. O anche a una linea virtuale, perché sia nella stessa posizione. Quindi reagisce a quella orientamento anche se è discontinuo. So your perception is trapped by the physiology of these cells. Quindi la vostra percezione è intrappolata dalla fisiologia delle cellule. And we believe that this these kinds of cells are found in V2, the A, V2, and V3. That's not what they're in the brain. Comunque queste cellule sono una parte di due V3. Now let me take you to knowledge of which you are again certain, but the certainty begins to ecco, qui c'è la conoscenza, finora delle proprie conoscenze, ma questo è il punto in cui la conoscenza diventa un po' travallante. If you look at this cube, which is known as the Necker cube, you find that this will either be towards you or away from you. Ah, quindi questo quadrato che si chiama il cubo di Necker cube. Bisogna vedere che il quadrato che abbiamo davanti può essere sia verso di voi o dietro di voi, cioè lontano da voi. Now, we call this an illusory figure. Noi la chiamiamo una visione illusoria. But that is nonsense, because illusory means a departure from the physical reality. Ah, però non ha senso dire così, perché in realtà l'illusione vuol dire staccarsi dalla realtà fisica. Without recognizing that the only perceptual reality that the brain has is brain reality. Quindi però questo non tiene conto del fatto che l'unica realtà che si può percepire al mondo è proprio quello che il cervello percepisce. So when you see this in one plane, that's a reality for you. When you see the other plane, that's a reality for you. And it is no good saying that this is a fact there, because your brain will not be able to see it in. E quindi è stupido pensare che in realtà questa immagine è piatta, perché in realtà sia che vediate il quadrato verso di voi, sia che vediate lontano da voi, è la vostra realtà ed è realtà, quindi non c'è una realtà in funzione. Let me show you a work of art that a friend of mine gave to me as a present. Questo è un regalo che mi ha fatto un amico a opera d'arte. And look at this, if you look at this boundary, it's not very clear here actually, if you look at this boundary or this boundary, it'd be either towards you or away from you. But if it is towards you, these two will be away. If it's away from you, these two will be towards you. Allora, se vedete la divisione tra la mia demarcazione tra il grigio e il nero, si possono vedere sia come lontano da voi o verso di voi, ma questo cambia poi il modo in cui vengono. Quindi se le vedete dentro, si spingono verso l'interno o al contrario. So there is an obligate by stability. Quindi c'è una stabilità obbligata. So you cannot decide not to see it like that. It's not up to you. This is how the brain works. Quindi non è una vostra decisione, è come il cervello viene organizzato. And this is one example which is extremely interesting for physiologists. The work of art which we can use to study the reactions in the brain. Quindi è molto importante perché questo è un momento in cui l'opera d'arte ci aiuta noi fisiologi a capire come il cervello reagisce. Because we know that in this area of the brain, in area D3, there are cells that respond to objects which are towards you and others which respond to objects which are away from you. Siamo sicuri di questo perché nell'area D3 le cellule che abbiamo spiegato prima riescono a percepire se un corpo è verso di noi o lo siamo di noi. And this stability implies that they are mutually affecting each other. E questa stabilità, bistabilità, implica che questi oggetti vengano visti verso o lo siamo di noi. Now I want to show you another creation by an artist which I have actually. Questa è un'altra creazione d'arte che io ho già usato in passato. Some of you, but perhaps not all of you, if you fixate, you will see Roger in the evening. Se voi vi fissate sul punto centrale, vedrete le parti esterne in movimento. No, there is no motion objectively in the evening. Oggettivamente non si stanno muovendo, non c'è movimento. But for those who see the green, the motion, ma per quelli che vedono il movimento, the movement is a reality, it's a brain reality. Sì, è una realtà il movimento, una visione, la realtà del cervello. And if you take subjects who see the motion and look at their brains in the scanner, e se prendete persone che vedono questo movimento, you find that activity in the area B5, what they see, the virtual motion. E se fate una risonanza magnetica alla persona che sta guardando questo oggetto e vede il movimento, vedrete action in the motion center B5. E vedrete azioni vere nel movimento della B5, vedere attività nelle parti del stesso movimento. When they see real motion, we get activity in B1 plus B5. Quindi, quando invece c'è un vero movimento, c'è attività nell'area B1 e B5. So it is that the brain is going beyond the information and projecting its concept onto the world around. Quindi è il cervello che progetta verso, che si proietta verso il proprio latte. Another example from the work of Bridget Riley, which some of you may know. Questa è un'altra opera d'arte di Bridget Riley. Which is worth studying is how you create an impression of movement and depth in a static two-dimensional figure. Che si è occupato di capire come rappresentare il movimento e movement and yeah. E la profondità in un oggetto bidimensionale. So far I've been talking about deterministic, about your brain being organized in such a way that you can only see things in one way. You can only okay. Now I want to talk about ambiguous. Okay. Quindi finora abbiamo parlato di casi in cui c'è un solo modo di cervello può pensare da quello che vede e ora invece parliamo di ambiguità. Now this is known as the wife, mother-in-law. Questa è chiamata la visione della moglie e della suocera. If you look at Christmas, these are the eyelashes, sì. And this is the necklace, this is the wife. Sì. Se vedete il collarino, vedete le ciglia e la moglie. And if this is the nose, se vedete il naso e la bocca pallina, è la suocera. And you can go from one to the other. Potete passare da una all'altra. But you never see the two at the same time. Però non riuscirete mai a vedere tutte le due immagini nello stesso momento. There is a part of the brain which is specialized for faces. C'è una parte del cervello che è specializzata nei visi, nei volti. And we assume that there is a reciprocal interaction between faces that register one aspect, faces that register another. E questo è proprio perché non potete vederlo nello stesso momento, perché la faccia, come dicono, la processata di volti avviene in un modo diverso. But now, for the first time, we go from a face to an object. Invece per la prima volta adesso qua vediamo il passaggio tra una faccia e un oggetto. Quindi questo può essere un viso oppure un vaso. And we know that there are separate areas in the brain that deal with faces and with objects. Quindi dato che gli oggetti e i visi vengono processati in due parti diverse della corteccia, si fa attività quando si vede questo oggetto Now, I want to tell you something about this instability. That it is highly stable. Because the instability is a part of the brain's knowledge acquiring system. L'instabilità è una parte del sistema di sicuro of knowledge, it has to entertain different possibilities. Ah, quindi quando il cervello non è sicuro di una certa conoscenza, mantiene al contempo diversi aperti e diversi strani. For example, if a lady smiles at me and I interpret it in only one way, I would still be in trouble. So I have to be open to different. Quindi se vedo la donna mi sorride e io ho qualche dubbio sull'interpretazione, è meglio che io tenga più di un io interpreto in un modo, è meglio comunque che io tenga aperte le strade. And hence you build a stability in the room. So this is a staircase illusion. Ed è così che si crea la stabilità. So these can be in playing towards or away from you. By putting a man sitting on them, you cannot get rid of this possibility. Quindi una volta che aggiungi una persona, elimini la tua possibilità e diventi torna la stabilità. If you take the wife and mother-in-law illusion and take out the wife with a necklace and some rouge and earrings, you still cannot get rid of this possibility. No. Ah, però comunque in questo gioco delle facce, anche se si colora l'immagine in modo che assomigli sempre di più all'immagine della moglie, comunque l'immagine della suocera rimane presente come possibile interpretazione. Non riesce a togliersela anche se fai questo. Another example. It is very, very difficult to get rid of the instability because the brain has got built into it. The capacity of giving multiple interpretations where it is not sure. Quindi anche questo è un altro esempio di come è difficile uscire da questa possibilità, perché il cervello appunto cerca di mantenere aperte. Now when you move from faces to vases, you move from one activity to another. Quando ti muovi dalla faccia al vaso, ti muovi da un'area di attività verso l'altra. And this for the first time opens one area for influences from other areas. Sì, e questo apre un'area alle influenze delle altre aree. And when you open up an area to influences from other areas, from memory and learning and so on, then you go into the form of real ambiguity, which is then studied by studying art. E quando quindi ti permette a un'area del cervello di ricevere influenze dalle altre aree del cervello, della memoria, di altre aree della percezione, ecco dove viene la reale ambiguità. Now, before I go into art, I want to just make two points briefly on how the brain obtains knowledge. It's a very complicated subject, but I believe eventually there are two ways in which it's done. E quindi questa reale ambiguità è quello che poi riguarda l'arte. E prima però di parlare dell'arte volevo spiegarvi un'ultima cosa su come il cervello acquisisce la conoscenza, perché è importante saperla prima di dire. What is by applying intuitive concept? Quindi un modo è applicare dei concetti ereditati. An example of the initial taking concept in color vision. Sì, come ad esempio il processo di razionalizzazione di rapporto nella processazione del colore. And there is nothing you can do about it. Sì, e non c'è niente. The other is synthetic concept, which is the concept you develop throughout postnatal life. Ecco, invece quello che l'altro modo è il concetto sintetico, cioè quello che si acquisisce invece durante la vita. For example, my concept of a house would be at any given moment all the houses that I have. Quindi certo, il concetto che si ha di casa è il concetto che io ho raccolto con tutte le case che ho visto. Equally, my concept of a beautiful lover might be a synthesis of all the lovers. Quindi invece, allo stesso modo, la mia idea di perfetto, di meraviglioso amante è l'insieme di tutti gli innamorati. And herein comes a huge paradox for the brain and for humanity, namely that the synthetic concept is the synthesis of everything we see, but at any given moment, what we experience is a single example, which may not satisfy the synthetic. Ma certo, questo è il grande paradosso per il mondo, cioè che è vero che l'idea che abbiamo di un oggetto è la sintesi del psicoanalista, ma ogni oggetto che vediamo è un solo caso che non soddisfa mai come l'ideale. Which is why I call my latest book Blenders and Miseries of the Brain. Ah, ecco perché l'ultimo libro che ho chiamato si chiama Meraviglie e Miserie del cervello. Creativity and art constitutes one way of overcoming this difficulty. La creatività e l'arte costituiscono un modo per superare questa situazione. Now, if we look at this painting by Vermeer, se noi vediamo quello che abbiamo which is if I'm editing correctly in Buckingham Palace. Quindi che è la sua maestà a Buckingham Palace. There is lots of what can say about it, about the chromaticity, about the veterinary use of death. But to the ordinary observer, the most striking thing is the entire abstract relationship between this man and this woman. Ecco. Quindi ci sarebbero un milione di cose da dire su questo libro. Del cromatismo, del buio della profondità, della resa dei aspetti, ma quello che colpisce il portatore comune è la civiltà del rapporto tra questo uomo e questa donna. He could be her husband, he could be her lover, be her brother, he could be a teacher. Potrebbe essere il marito, potrebbe essere l'amante, potrebbe essere un amico, un fratello, un insegnante. There is no correct non c'è una risposta corretta. Means that anyone viewing it can project any concept they want onto the painting. Perché chiunque lo veda può proiettare la propria interpretazione sul Hence, the neurobiological definition of ambiguity is not the same as the dictionary. Quindi la definizione di ambiguità data dalla neurobiologia non è la stessa del vocabolario. The Oxford English Dictionary defines ambiguity as uncertainty and vagueness. Il dictionary che è il riferimento dell'inglese la chiama la vaghezza e incertezza. But the neurobiological definition is the exact contrary, it is the certainty, but the certainty of many different interpretations, each one of which is at a given moment. Ma invece l'interpretazione e la definizione neurobiologica è totalmente diversa perché vuol dire all'assoluta certezza dell'esistenza di diverse interpretazioni che hanno tutte la stessa validità e sono tutte sovrane. And you can see the same, the girls of pearl earring, which is alternately seductive and erotically charged across the case. And the genius of the pair is that he would put these multiple interpretations into a single word. Certo, e quindi anche per la ragazza con l'occhio di perla vediamo che nel perle vediamo il genio di Vermeer che è riuscito a dare nella stessa immagine l'inquietudine tra l'assoluta castità e l'assoluta seduttività di questo uomo. No, we have another artist of genius. Abbiamo un altro genio. Michelangelo. Ha lasciato. Non finite i tre quinti delle proprie opere. People have argued about why he did that and said that he had many commissions, he needed money and so on and so forth. All this is not true. The man who could produce this guitar completed the Zydeco was not a man who lacked talent. Ci sono state molte spiegazioni a questa scelta, per cui anche il fatto che avete poco lavoro da fare che volutamente siamo più di tempo di essere così, ma chi ha creato la pietà per Santico a Roma sicuramente non può. So instead of relying on what the authorities say about Michelangelo, I will rely on what Michelangelo said himself about his own Finito. He said, I shall leave a work not Finito until I get that divine inspiration from heaven. Quindi invece di pensare a quello che infatti affidiamoci a quello che dice Michelangelo stesso, cioè lascerò non finito non finita la mia opera finché non avrò l'ispirazione divina. In other words, you're going to leave it deliberately unfinished. Quindi la sua, le sue opere non finite sono state lasciate in modo arbitrario. And he was very much taken by the difficulty of realizing the concept of his brain in a work of art or even a series of works. Quindi questa sua decisione di lasciare Ah, una serie intera di opere d'arte. So I would like to quote you the last few lines, unfortunately in English, of his Rite, which he devoted to Vasari. Ah sì, vi dirò le sottolineo in inglese alcune alcuni versi delle sue rime che ha dedicato Vasari. He says, I now know how fraught with error was that vivid imagination that made art my idol and my king. Quindi, ora so quanto, quanto ricca di errori era la mia immaginazione che rese l'arte la mia, my idol and my king. Il mio idolo e il mio re. No brush, no chisel can quieten the soul once it turns to contemplate the divine love of him who from the cross che okay, mai mi sono dimenticato nessuna spazio, nessuna nessun pennello e nessuna calzatura riuscirà mai a spietare l'anima quando contempla quasi può accusare la, l'anima to quando si inizia a contemplare the divine love l'amore divino of him who from the cross di colui che dalla croce ci ha preso tra le sue braccia. The important word there is contemplate. He is contemplating, but he cannot use brush and chisel to produce the result. Quindi la parola chiave è contemplare, perché lui può contemplare, ma non riesce a tradurre con appunto pennello e con fratello e cedello quello che lui contempla. And thus, perhaps the greatest artist the world has produced. E quindi in questo caso la cosa più grande che l'uomo ha prodotto cioè il percorso contro l'arte. Now, works, unfinished works are also a characteristic of other people like Cézanne. Yes. People criticize Cézanne for not completing his works. Sì, anche la gente criticava Cézanne perché non completava i suoi film. But Cézanne replied in French. Ma lui risponde in francese. To see is to conceive. Vedere è concepire. He understood it was the brain that brought its concept to bear on things and give it to reality, which is a very reality. Now, I want to, I'm coming at the end soon, Mr. Chairman, I'll keep that big note. Winckelmann. Johann Winckelmann was from the first art historian. Il primo, fu probabilmente il primo storico dell'arte. And he had an ideal of Greek culture. E aveva un ideale per quanto riguarda la cultura greca. And this ideal consisted of two opposing elements. E questo ideale consisteva di due elementi contrapposti. One was the calm and sensuous concentration. Una era la calma e sensuale contemplazione della natura. The other one is brute force. L'altra era la forza brutale. To annihilate anything that will come in the way of that calm and sensuous concentration. Quindi l'eliminazione brutale di tutto ciò che poteva interferire in questa calma e sensuale contemplazione. I'm afraid that the prediction I have not spoken here, but the ideal Greek culture that Winckelmann chose to represent his concept of Greek culture is the Apollo Belvedere, which is sitting in the Vatican Museum. Quindi l'Apollo del Belvedere che adesso è in Musei Vaticani è proprio l'incarnazione di quello che ha scelto come ideale della greca. And it was excavated during Michelangelo's time. Fu estratto dalle and Michelangelo said that he wept when he saw it because it was a teacher. Ah, e gli viene e si ricorda che Michelangelo pianse quando lo vide perché disse che era il suo maestro. If you go to the Vatican Museum, to the Sala Belvedere, you will find that this sculpture is surrounded by lots of complete sculptures. But this is the one that arrests, because this is the one which you can reject all your views. Però anche la sala in cui c'è questa opera è in mezzo a molte altre sculture, tutte complete, ma questa è l'unica che rimane in mente, quella che voi avete proiettato, la vostra visione. No, I want to move to do something else because it is all part of the brain multiplying system. I'm telling you about another inherited concept of the brain, which is one which is critical in romantic love. Allora, ora passiamo da un altro concetto, sempre un altro concetto ereditato del cervello, e per parlare di questo parliamo dell'amore romantico, molto importante per questo. The two concepts I'm talking about, the inherited and the applied concept and the synthetic concept, can be exemplified by discussion of romantic love. Quindi la discussione dell'amore romantico spiega più due concetti che abbiamo detto prima, sia quello del punto di sintesi che quello di ereditarietà. Your concept of a lover is based on all the lovers you've seen. Il vostro concetto di amante, di innamorato, è basato su tutte le esperienze di tutti. But there is an inherited concept of love, which you can only get from the world literature of love. Ma c'è solo invece il concetto di ereditarietà del concetto di amante, you can only get from the world literature. Invece viene chiamato, è possibile con la letteratura sull'amore. E il mondo letterario che parla d'amore è un interesse anche per noi. So what is that biologically inherited concept of love? Quindi a livello biologico, qual è dove questo concetto di amore come viene ereditato? It is the concept of unity. Of unifying with your lover. È il concetto di unificazione con il proprio amante. That concept, unfortunately, is only a concept. You can never be unified except for a brief period with a lover. Quindi, invece il problema è che questo è solo un concetto di unificazione, perché in termini reali, a parte un brevissimo periodo, non potete essere unificato con il proprio amante. Hence, a universal wish in the world picture of love. For the lovers to die so that they can be united in a different world about which we know nothing. Ed è per questo che nel mondo della letteratura l'idea di morte degli amanti è importante, perché avviene questa unificazione in una dimensione che non conosciamo, però questa unificazione che viene trasportata. So let me give you one or two examples from world literature. Let's start with Tristan and Isolde. The Wagner version of Tristan and Isolde, which are an excellent edition, which we cannot reproduce here. He says, in his own words, I quote, that Tristan and Isolde deals with a single emotion, that of longing without end and without satisfaction. Nelle parole di Wagner è che l'amore deriva da una sola sensazione, cioè il desiderio, il senso fine e senso soddisfazione. Let me give you an example from Krishnarada, in the Hindi literature. Invece una parola della letteratura indiana di Krishnarada. Krishna, the god Krishna, Dio Krishna, falls in love with their cowherd, their farming woman. Sì, Krishna si innamora di una contadina. And they have one wish, to be united to each other. E hanno un desiderio di essere uniti. And by that and to be annihilated in that union. Ed essere annihilated. Ed essere annichilati da questa unione. Because in the great Hindi tradition, Brahman is some totality of everything in the universe where love does not arise anymore. Because there is no male and female or two partners or two lovers, nothing like that. Everything is come to affect everything in the universe. So that's what they want to go back to. Quindi, perché questo è una delle basi della cultura indiana, cioè che il fatto che Brahman non esiste in questo concetto finale, non esiste più la differenza tra uomo o donna, ma c'è un'unità, una continuità, una totalità a cui Krishna e la sua amata vogliono tornare. Which is why Arthur Schopenhauer and Wagner were so impressed by Hindi. Ed ecco poi il motivo per cui Schopenhauer e Wagner sono così influenzati e impressionati e colpiti dalla cultura indiana. Now, the brain does not have an infinite number of concepts of love, but one with variation. Ah, Ah, non esiste una varietà di concetti dell'amore nel cervello, ma è un concetto che è una possibilità del cervello. So this one thing